Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo, come sempre, la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Intanto saluto anche gli ascoltatori notturni. Alcuni di loro mi hanno nuovamente scritto dicendo: saluti sempre gli ascoltatori che ci sentono la mattina, che ti ascoltano la mattina, e quelli che ti ascoltano la notte. Bene, buon lavoro anche a loro. Vi ricordo che tutte le puntate di Un Abuso al Giorno possono essere ascoltate anche sul sito della radio www.radio24.it, scaricabili. C'è anche un archivio che vi agevola nella ricerca per argomento e per periodo. Vi ricordo, ed è l'ultima informazione, poi mi taccio, il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, tra le tante lettere che sono giunte in redazione, una, devo dire, mi ha colpito, forse per la bellezza dei luoghi, o forse anche perché ricordano in Italia ormai da anni dimenticata, più o meno impropriamente. La lettera arriva da Riccione, località che non ha bisogno certamente di essere presentata perché è famosa in tutto il mondo, e riguarda lo stato oggi di abbandono di quelle che erano le vecchie colonie, le ex colonie, quindi questi fabbricati in cui moltissimi ragazzi, e non solo, hanno passato periodi straordinari, più o meno straordinari, anzi è il caso di dire, della loro adolescenza, della loro gioventù. Ebbene, un radioascoltatore, Antonio Scicchitano da Riccione, ci ha scritto per dirci: lo stato di queste colonie, di questi fabbricati nella mia città, in realtà è una vergogna. Devo dire che avevo già affrontato questo caso, non di Riccione, ma comunque della Riviera Emiliano-Romagnola, alcuni mesi fa, in un'inchiesta che ho condotto sul Sole 24 Ore sui beni confiscati alle mafie, tra cui anche un ex colonia che apparteneva, pensate un po' voi, alla banda della Magliana. Ebbene, questa colonia è stata poi ristrutturata e rigovernata, diciamo così, riportata ad uso pubblico. Intanto do il buongiorno ad Antonio Scicchitano, che è il radioascoltatore di Riccione. Buongiorno Scicchitano. Buongiorno dottor Galullo. Buongiorno al sindaco. E do il buongiorno appunto al sindaco di Riccione, Massimo Pironi. Buongiorno sindaco Pironi. Buongiorno dottor Galullo e buongiorno a tutti gli spettatori. Allora, dicendo che ovviamente la nostra è una chiacchierata, un dialogo per capire che cosa di propositivo si fa in Italia per cambiare, diciamo così, lo stato di cose che non vanno, e quindi più o meno indecoroso, più o meno vergognoso, io vorrei che il nostro radioascoltatore Scicchitano ci raccontasse un po' di quello che è lo spettacolo di questo quartiere, il quartiere Marano, dove lui vive e con il quale è abituato a fare i conti tutti i giorni. Prego Scicchitano. Dunque, premetto che io sono innamorato di Riccione, ho iniziato a venire a Riccione in vacanza nel 1957, si figuri lei dottore. Certo. Allora, sono arrivati a un certo punto, mi sono riuscito a comprare una casa a Riccione, finalmente, alla fine della mia vita, e vivo in questo quartiere Marano, praticamente sul lungomare, a pochi metri dalla spiaggia e all'ingresso proprio di Riccione. Ci sono queste vecchie colonie fabbricati, anche dei terreni, in uno stato fatiscente, abbandonato. Ora io so che se ne parla, che c'è un progetto di costruire, di bonificare, di migliorare, è un progetto che io ne sento parlare da anni. Ecco, ma cioè, lei ad un certo punto nella sua lettera, giustamente, proprio perché dimostra di avere amore per Riccione, un amore che io personalmente condivido, ma un amore che estendo a tutto il mio paese, all'Italia, perché non c'è zona che non ami, lei dice: però in questi anni io ho incontrato una sorta di muro di gomma quando mi andavo ad interfacciare con le pubbliche amministrazioni, perché giustamente lei voleva sapere in che condizioni, diciamo così, di iter amministrativo fossero le procedure per dare un volto nuovo a questo quartiere. Ecco, perché ha incontrato questo muro di gomma? No, muro di gomma perché insomma a un certo punto si parla di questo progetto, poi uno quando chiede ma quando inizieranno i lavori, ogni anno passano gli anni e sempre non si riesce a sapere di chi ha la colpa, la regione, la provincia, io esattamente queste cose non ne so. So che a un certo punto non è che noi residenti di questo pezzo di Riccione ci diamo che venga costruito a tutti i costi, però che queste case, colonie, questi terreni vengano bonificati e ripuliti, perché non possiamo vivere in queste condizioni. È uno spettacolo veramente. penso anche ai turisti che passano su questo pezzo di lungomare, che si porranno anche una domanda: come mai esiste ancora queste cose? Ecco, tutto lì. Certo, certo. No, ma lei è stato chiarissimo. Giustamente lei non pensa soltanto al, come dire, all'interesse personale, che comunque è legittimo, cioè il suo di vivere in un ambiente protetto, sano, ma sta pensando anche, lo sta dicendo, e questo gliene do atto con enorme piacere, al decoro di tutta la città, perché ovviamente Riccione è una città che vive di turismo. Allora, Sindaco Pironi, lei ha sentito la disamina del suo concittadino. A che punto è allora lo stato dell'arte per quello che è l'impegno del suo comune nella bonifica di queste aree? Ma lo stato dell'arte è questo. Intanto, distinguendo giustamente, ringrazio il signor Sicchitano per le sue osservazioni, in quanto i piani sono due. Uno è quello del decoro, che al di là di edifici che ovviamente dimostrano tutti gli anni che hanno, è quello appunto comunque di garantire un decoro che ci permette insomma di presentare la nostra città, e quella è una delle porte d'ingresso della città. Esatto. Perché è la porta nord che apre appunto da Rimini verso Riccione, e l'altro invece di quale futuro. Allora, il futuro che noi abbiamo pensato è stato quello di lavorare da un lato sulla qualità ambientale, uno su nuovi segmenti turistici che grazie anche a queste strutture si può intercettare, terzo quello della salvaguardia di questi monumenti storici sulla base anche di un piano delle colonie definito dalla Regione Emilia-Romagna, che salvaguarda e identifica e classifica le diverse colonie che sulla costa emiliano-romagnola si sono realizzate dagli anni 20 venendo in avanti. Ecco, mi permetta di sintetizzare per vedere se ho ben capito quello che è il suo ragionamento. Cioè lei dice, da una parte noi dobbiamo pensare di utilizzarle magari anche come strutture recettive, riqualificandole, ma dall'altra siamo soggetti ad un piano di riqualificazione della Regione Emilia-Romagna, è così? Un'opportunità, non un limite, ecco. Perché se noi avessimo autorizzato la realizzazione di residenziale, probabilmente lì avremmo già una situazione diversa, ma avremmo, come dire, mancato un obiettivo, che è l'obiettivo della nostra economia, che è quello di valorizzare i nostri territori, in particolare le zone più prossime al mare per quanto riguarda l'economia turistica. Ecco, però questo qui è un buon proposito. No, dice, noi abbiamo rinunciato a farci delle case, sarebbe stato molto più facile, buttavamo giù tutto e facciamo delle case, invece noi vogliamo mantenere questo pezzo, che è un pezzo di architettura comunque importante dell'Italia. E sì, però i tempi quali sono, Sindaco? Cioè, per i tempi quali sono? Il problema qual è stato in tutti gli anni? È stato quello di individuare imprenditori che comprendessero queste indicazioni e avessero la voglia di operare e di lavorare non per la rendita, ma per un'attività di impresa che ovviamente dà un ritorno e un rientro in quelli che sono i tempi, insomma, di un investimento di impresa. Qualche anno fa finalmente abbiamo avuto una proposta di questo tipo da parte di un gruppo di imprenditori del settore turistico che operano a livello internazionale e sono anche imprenditori locali, e ovviamente si è avviata una procedura e anche, come dire, un confronto con l'amministrazione precedente. Io sono sindaco da 5 mesi, anche se ovviamente ho fatto attività amministrativa in provincia e anche nel mio comune, quindi conosco tutti, certo, i percorsi, i processi che si sono avviati, che hanno portato alla sottoscrizione di una convenzione con questa impresa, con questo gruppo di imprese private, nel mese di marzo del 2009, una convenzione che prevede la messa a disposizione da parte del comune di Riccione di una di queste colonie, che è di proprietà del comune e si chiama Colonia Reggiana, ed era la colonia utilizzata dalle industrie reggiane per mandare i bambini negli anni 20, insomma, negli anni, sì, 30, e una parte invece di altre colonie private acquistate da questi imprenditori. Ecco, abbiamo sottoscritto appunto questa convenzione in marzo di quest'anno e si è in fase di progettazione definitiva per realizzare un villaggio turistico da 300 camere, quindi 600 posti letto, perché parliamo di un'area importante, insomma, è rilevante, e che prevederà da parte dei privati un investimento di circa 90 milioni di euro, con oltre 7 milioni di euro di opere, chiamiamole, di urbanizzazione, di qualificazione di quel territorio dal punto di vista degli assi viari, dal punto di vista della realizzazione del parco, dal punto di vista di cederci una delle piccole colonie a uso pubblico, e quindi sarà di proprietà pubblica per le attività che noi riterremo opportuno. E come si è scontrata questa cosa oggi? Si è scontrata ovviamente con una che voi conoscete bene, la vostra radio è una di quelle che da questo punto di vista sull'economia lavora più di altre, con la contrazione del credito e quindi con una difficoltà nell'andare anche a reperire, pur essendo imprese valide, certo, qualificate, e i finanziamenti necessari per poi avviare il progetto. Allora io ringrazio il sindaco Pironi per il suo intervento, ci ha dato sostanzialmente questa notizia, caro Scichitano, radioascoltatore che saluto, che ci ha scritto da Riccione, vale a dire credito, stretta del credito permettendo, quindi i rubinetti aperti delle banche permettendo, partirà un progetto di riqualificazione che interesserà una e più colonie. È un inizio, seguiremo questo inizio, speriamo che sia una proposta seria, serissima, non siano soltanto chiacchiere, e certamente non imputabili al sindaco, ma al, come dire, allo stato un po' generale dell'arte del nostro paese. E quindi nel ringraziare Fabio Cantadori in regia ed Elisabetta Fusconi in studio, Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata. We'll be right back.